Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Siamo giunti ai saluti e ai titoli di coda per questa 8ª stagione del programma che chiude e va in vacanza, anche se in realtà vi lasceremo nelle prossime 2 settimane con alcune delle migliori trasmissioni andate in onda nel corso degli ultimi mesi. Nel congedarci vi regaliamo un'altra incredibile storia di connazionale che si è fatta strada all'estero, questa volta in Francia. Quando le storie di espatrio individuali incrociano la storia, quella con la S maiuscola, potremmo annotare a margine, anticipandovi la sorpresa. Oggi chiudiamo la stagione raccontandovi anche una mostra che illustra visivamente gli effetti collaterali della nuova emigrazione professionale, almeno nelle crescenti distanze geografiche tra genitori e figli. E quindi bene, è arrivato il momento di dare il via a quest'ultima puntata della stagione 2016-2017 di Giovani Talenti. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright del vice ministro alla cooperazione internazionale Mario Giro. Partite senza dimenticare l'Italia, dice Giro in un incontro pubblico in università. L'occupazione all'estero, osserva, non è una fuga, ma quando non diventa stabile, un'esperienza che nel curriculum di un giovane può fare la differenza. Giro conclude, rivolto ai ragazzi, non seguite le mode, non esistono soltanto Barcellona e Londra. Le sue parole sono arrivate nel corso di un'iniziativa dedicata a diffondere le opportunità di impiego nel settore della cooperazione internazionale. Tutte le info su agenziacooperazione.gov.it. Per la BCE la disoccupazione giovanile nell'area euro è ancora al di sopra dei livelli precedenti la crisi ed è particolarmente alta in Grecia, Spagna e Italia. La Banca Centrale Europea torna a lanciare richiami su questo problema anche alla luce degli elevati costi che può proiettare sul futuro. Secondo Francoforte sono necessari interventi sui mercati del lavoro in alcuni paesi. L'istituzione suggerisce di agire su 4 versanti. Primo, migliorare la rilevanza del lavoro nel sistema dell'istruzione. Secondo, un sistema di fissazione dei salari che funzioni adeguatamente e in maniera responsabile. Terzo, migliorare i servizi pubblici di inserimento nell'occupazione. Quarto, un aumento della flessibilità mirata a facilitare la combinazione di studio e lavoro e la transizione dall'educazione all'occupazione. Restiamo ora in Europa per parlare di come ci sia anche un'impronta italiana nel team che ha portato Emmanuel Macron all'Eliseo. Quando ho saputo che Emmanuel Macron creava un dipartimento d'opinione, ho mandato un curriculum e ho cominciato a collaborare con loro in modo totalmente precario, però alla fine ho vinto la sfida. Caterina Avanza, 36 anni, lavora per il movimento La Repubblica en Marche del neopresidente transalpino Macron. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. I giovani italiani, al pari dei loro coetanei e di altri paesi europei, desiderano rendersi autonomi dai genitori e formare una famiglia, ma per loro è più ampio il divario tra ciò che vorrebbero fare e quello che riescono effettivamente a realizzare. E quanto emerge dal rapporto Giovani 2017 dell'Istituto Toniolo, lavoro e situazione economica rappresentano per oltre il 70% degli intervistati un elemento che ha pesato abbastanza o molto nell'impedire l'uscita dalla casa dei genitori. Dal mondo giovanile italiano emerge forte la preoccupazione nei confronti di una condizione di difficoltà che non fa intravedere sbocchi lavorativi e che risulta accentuata dalla crisi. La categoria più penalizzata risulta essere quella dei giovani inattivi, per la quale lavoro e congiuntura economica sono stati ostacoli rilevanti in più dell'80% dei casi. Infine, 70% dei giovani italiani lavorerebbe all'estero, con una percentuale più elevata rispetto ai coetanei delle altre nazioni. La disoccupazione fa paura, lo afferma il 22% dei giovani intervistati nell'ambito del 5º rapporto di ricerca dell'osservatorio Generazione Proteo. Secondo la ricerca, quasi 4 giovani su 10 hanno una preoccupazione ancora più alta, quella di non poter realizzare i propri sogni. Disposte a fare sacrifici, le nuove generazioni sono pronte anche ad andare all'estero, dove per il 45% è molto più facile fare impresa. Pronte ma non entusiaste, il 38% degli intervistati sostiene che lasciare l'Italia non gli piacerebbe affatto. Il problema è che i nostri giovani pesano sempre di più sulle spalle delle famiglie d'origine, nonni compresi, soprattutto se la situazione lavorativa è instabile. Nel 2016 la cifra che le famiglie italiane hanno trasferito ai giovani ammontava a 38 miliardi, così ripartiti 30 miliardi dai genitori, 8 dai nonni, il dato emerge dal rapporto Assimoco-Ermeneia. Prosegue il concorso di idee imprenditoriali finalizzato a favorire il rientro degli immigrati umbri nel territorio regionale attraverso lo startup di impresa. Beneficiari gli immigrati residenti all'estero e di origine umbra che abbiano conseguito laurea o dottorato presso l'Università di Perugia e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore a 24 mesi. Info a segreteria@aur-umbria.it. Sono stati pubblicati su gioventuservizio civile nazionale.gov.it i bandi 2017 per la selezione di oltre 47.000 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero. I ragazzi potranno scegliere tra 1.887 progetti, di cui 94 all'estero, presentati dagli enti inseriti nell'albo nazionale. Per l'anno in corso saranno oltre 26.000 giovani volontari, 788 all'estero impiegati. Alla selezione potranno partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 26 giugno. Infine, buone notizie. L'astronoma Laura Ferrarese sarà il prossimo direttore dell'Osservatorio Astronomico Gemini, è la prima donna e la prima italiana a ricoprire questo incarico. Attualmente è Principal Research Officer per l'astronomia al National Research Council of Canada e docente all'Università di Victoria, in Canada, paese in cui lavora da 12 anni. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a chiudere la nostra stagione in bellezza in Francia, paese da cui è soffiato un mese e mezzo fa un vento molto interessante di cambiamento e anche di speranza. Dietro le quinte di questo progetto c'è anche una giovane italiana che andiamo oggi a conoscere. Nome? Caterina. Cognome? Avanza. Età? 36 anni. Città di origine? Brescia. Studi? Scienze politiche a Bologna. Anno in cui hai lasciato l'Italia? Nel 96 la prima volta e poi nel 2004. Per andare dove? A Parigi le due volte. Perché? Per studiare. Quale lavoro svolge attualmente? Responsabile dei processi partecipativi, democrazia partecipativa alla Repubblica En Marche. Dove? A Parigi. Tornerai? Se ci fosse un'opportunità di lavoro fantastica, perché no? Sous le ciel de Paris s'envole une chanson, elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. La mia vita non è perfetta, ma in Francia a 25 anni ho avuto la possibilità di diventare adulta, lavoratrice, mamma, proprietaria di una casa. Quando vedo i miei amici in Italia sono tutti precari, non fanno figli perché non possono permetterselo economicamente. A livello professionale fanno fatica a evolvere e a crescere. Penso che un sacco di gente se ne vada dall'Italia perché è normale che a 30 anni si abbia voglia di sentirsi donne e uomini e non ragazzini, figli di mamma. Queste parole, Caterina, le scrivevi 3 anni e mezzo fa, quando ci inviasti per la prima volta la tua storia. Sono valide anche oggi? Sì, penso che in Italia si diventi adulti a 40 anni, mentre in Francia a 25, e io ho tendenza a essere un po' frettolosa, quindi preferisco il modello francese dove insomma a 30 anni si hanno due figli e un lavoro degno di questo nome. Assolutamente condivisibile. La tua storia ha un'impronta profondamente internazionale che inizia addirittura al liceo linguistico. Perché a soli 16 anni decidi di partire per la Francia e per fare cosa? Ma Brescia negli anni 90 era una città molto piccola e provinciale, oggi sicuramente diversa, e quindi mi annoiavo sostanzialmente e ho avuto questa opportunità, facendo il liceo linguistico, di fare un anno di Erasmus già dal liceo, esperienza che consiglio a tutti i liceali che ci ascoltano, e quindi ho preso la palla al balzo e ho fatto questo anno che poi sono diventati due. Ecco, l'impatto col sistema educativo francese non è stato semplicissimo. Quali le differenze maggiori? La difficoltà all'inizio è la lingua, poi in realtà a 16 anni il cervello è elastico, quindi in qualche mese si diventa bilingue. Il problema è lo scritto, chiaramente, perché il francese scritto è difficile, e soprattutto il metodo. Hai però vinto la tua sfida, perché sei rimasta un anno in più, ti sei diplomata in Francia e hai guadagnato anche un anno, perché oltre al liceo è quadriennale. Il problema, siamo nel 99, non due secoli fa, è però farsi riconoscere il titolo di diploma. Quanto è stato difficile riuscire a iscriversi a un'università qui? No, è stato veramente degno di una novella di Kafka. Ci ho messo un mese praticamente, eppure era semplicemente un diploma di maturità francese, non del Kurdistan, e però è stato veramente veramente complesso, tant'è che mi sono iscritta all'università anche qui per timore di perdere un anno. Poi alla fine, l'ultimo giorno possibile, sono riuscita ad iscrivermi a Bologna. Tra l'altro hai scelto scienze politiche e hai scelto di farla in Italia, perché? Ma scienze politiche per me è sempre stata un'evidenza, cioè dai primi anni di liceo, in Italia, perché scienze politiche a Bologna è sicuramente un'ottima università. A posteriori, da 1 a 10 il tuo voto all'università italiana? Noi soffriamo di un complesso di inferiorità, perché secondo me il voto va 8 sicuramente, 8. Professori eccellenti. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti, Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Caterina Vanza, 36enne al lavoro presso la Repubblica Marche, il movimento del neopresidente francese Emmanuel Macron. Una storia a tinte profondamente transalpine, quella di Caterina, cominciata con uno scambio studentesco a Parigi al liceo linguistico e proseguita con una carriera lavorativa tutta oltralpe, dagli istituti specializzati negli studi d'opinione fino alla discesa nell'arena politica al lavoro per il nuovo movimento di Macron. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Dopo la laurea voli in Perù per uno stage in una ONG, poi torni in Italia. Hai trovato prospettive al tuo ritorno? Sì o no? No, prospettive magrissime, cioè non riuscivo neanche a trovare uno stage, quindi sono tornata in Francia per un master. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Finito il master alla Sorbona, ho cominciato la mia carriera come stagista in uno studio di consulenza di Parigi, specializzato in comunicazione politica e corporate, ricordi. In 5 anni ti fai le ossa sviluppando la tua carriera, ma non è stato facile, dici, perché? No, non è stato facile perché ancora una volta appunto in questi mestieri di consulenza il francese scritto quando si lavora per le istituzioni francesi è fondamentale, quindi vedevo i miei colleghi andare molto più veloci di me semplicemente perché francofoni, quindi mi sono data una disciplina molto ferrea, cioè mi sono impedita di leggere in italiano per almeno 10 anni. A Parigi la tua carriera è molto variegata, fondi Eticando, impresa sociale che si batteva per la legalità e vendeva i prodotti delle cooperative sociali italiane, poi sei stata assunta da IFOP, la prima società specializzata oltre Alpe in studi d'opinione. Con quale responsabilità? Io lavoravo agli studi qualitativi per delle personalità politiche o delle istituzioni, quindi sono ricerche specifiche per capire certe problematiche che può avere un uomo politico oppure un ministero su dei casi specifici. A un certo punto lasci questa posizione ottima all'IFOP e rischi tutto per un movimento politico che un anno fa praticamente non esisteva, rimettendoti completamente in gioco. Perché l'hai fatto? Come si dice qui, chi ne tente rien n'a rien, e quindi quando ho saputo che Emmanuel Macron creava un dipartimento d'opinione ho mandato un curriculum e ho cominciato a collaborare con loro in modo totalmente precario, però alla fine ho vinto la sfida perché appunto adesso mi hanno assunta in modo stabile. E che ambiente di lavoro hai trovato da Marche? Di cosa ti occupi esattamente? Durante la campagna mi occupavo della stessa cosa che all'IFOP, cioè di ricerche qualitative, e poi oggi invece mi occupo di tutti i processi di democrazia partecipativa all'interno del movimento che comunque conta 370.000 persone, quindi insomma c'è da fare. È un'altra scommessa anche in prospettiva, visti anche gli ottimi risultati elettorali ormai che ti aspetta nei prossimi anni. Sì, cioè c'è una volontà chiara di mantenere questo movimento come un movimento estremamente partecipativo e vicino al terreno, al territorio. In bocca al lupo ovviamente Caterina, ricordiamo anche domani c'è il secondo turno delle legislative francesi dopo l'ottimo risultato per il vostro movimento del primo. Deviamo un attimo dal copione, che persona è Emmanuel Macron, tu che ci hai potuto lavorare visto da vicino? Ma Emmanuel Macron ha tantissime qualità, la prima secondo me è quella di saper ascoltare, di voler ascoltare, e secondo me questa è la grande qualità che ha lui. Per te Caterina, la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, è una proposta concreta da cui ripartire? L'Italia dall'estero secondo me manca di meritocrazia, questo è il grosso problema, secondo me la ragione principale per la quale i giovani se ne vanno, cioè i giovani che hanno un po' di ambizione di carriera se ne vanno, perché appunto hai questa sensazione che devi conoscere un tale o un altro per riuscire a avere un posto, che insomma, una posizione professionale che ti soddisfi. Qui effettivamente mandi un curriculum e se sei bravo ti chiamano, e questa secondo me è una differenza sostanziale, cioè io non saprei neanche a chi mandarlo un curriculum in Italia oggi. Secondo me la meritocrazia è la parola chiave per riuscire a far tornare dei giovani che hanno fatto delle cose interessanti all'estero. Ci raggiungerò in linea Maria Chiara Prodi, consigliere presso il Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Buon pomeriggio Maria Chiara. Buongiorno a tutti. E ben ritrovata, visto che sei stata già nostra ospite. Quanti giovani italiani, ti chiedo, come Caterina, vivono a Parigi con alle spalle storie così incredibili? È una città delle opportunità a Parigi? Lo è senz'altro, lo è sempre stata, anche quando si guarda storicamente l'emigrazione italiana, a cui tra l'altro Parigi in questo momento sta dedicando una bellissima mostra giustamente al Museo del l'immigration à la Porte Dorée. È una storia che ha le sue radici molto, molto tempo fa, ovviamente, ma è un dato che dall'inizio degli anni 2000 questa immigrazione italiana in Francia è aumentata del 140% e nel solo 2016 11.000 nuovi italiani sono stati recensiti in Francia. E sono ovviamente probabilmente sottostimati, Maria Chiara, come sappiamo. Assolutamente, perché diciamo che ci sono vari modi per tracciare queste immigrazioni. Da una parte quello su cui l'Italia si basa e che è uno strumento un po' non adeguato è l'AIRE, l'anagrafe degli italiani all'estero. È un obbligo che è in realtà adempiuto da meno del 50% dei nuovi emigrati. Maria Chiara, tu fai parte del Consiglio Generale Italiani all'estero. In estrema sintesi, cos'è e chi rappresenta? Il Consiglio Generale degli Italiani all'estero è eletto da appunto gli iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero. È un secondo livello, nel senso che la rappresentanza degli italiani all'estero conta i comites, che sono i comitati degli italiani all'estero su base di circoscrizione consolare, e invece il Consiglio Generale degli Italiani all'estero dipende dal Ministero degli Affari Esteri, tanto che il proprio Presidente è il Ministro degli Affari Esteri, e ci sono 43 consiglieri che sono eletti in tutto il mondo e 20 che sono nominati dal governo. Due segnalazioni importanti: la prima, avete lanciato un'iniziativa Nuove Migrazioni, Nuove Pratiche, ne abbiamo parlato anche qui, cos'è ma soprattutto come sta andando? È un'iniziativa che è una call for best practice, il sito è nuovemigrazioninuovepratiche.it. L'idea è che siamo a un punto un po' di cerniera, appunto le vecchie strutture di recensione e di strutturalizzazione delle migrazioni all'estero non funzionano con la nuova migrazione, che si ritrova piuttosto magari in pagine Facebook o in gruppi informali, e questo rischia di fare perdere per strada tante iniziative di innovazione, di mutuo soccorso e di collaborazione appunto tra le comunità e il territorio. La nostra finalità è quella di recensirle, di metterle a disposizione di tutti perché siano copiabili. E poi state preparando per l'anno prossimo la Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo. Alla base un'esigenza: far comprendere alle nostre istituzioni la diversità profonda di questa nuova immigrazione rispetto a quella del passato. Il messaggio, ti chiedo in un flash, sta passando? Sta passando, perché il fenomeno è talmente vasto che non può più essere passato sotto silenzio. Quello che serve è soprattutto un protagonismo della nuova immigrazione, cioè non più che sia parlata da altri, ma che sia lei a parlare, di modo che appunto sia possibile creare delle passerelle di innovazione e di respiro, nuovo respiro, che sicuramente all'Italia servono, e che insomma non siamo in questo mondo globalizzato altro che cittadini italiani in un altro luogo, ma che possiamo continuamente dare un nostro contributo al paese. Grazie a Maria Chiara Prodi e buon lavoro. E domanda di rito per Caterina Avanza: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie via di uscita, un espatrio? Secondo me un espatrio anche di qualche mese è sempre utile, perché appunto imparare una nuova lingua e confrontarsi a una nuova cultura è fondamentale. Ci sono dei momenti duri, dei momenti di solitudine estrema, però vale sempre la pena. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una Program Management Officer per UNEP, programma ambientale delle Nazioni Unite a Nairobi, Kenya. Scadenza per i CV oggi, info su careers.un.org. Un funzionario legale alla European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg in Germania. Scadenza per i CV 25 giugno, info su embla.org/jobs. E infine un assistant professor in chimica all'Università di Helsinki in Finlandia. Scadenza per i CV 30 giugno, info su helsinki.fi. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Comunicare a distanza al tempo della nuova immigrazione. Skype e internet sostituiscono sempre di più il tavolo della cucina o del salotto nei rapporti tra genitori e figli, quando sono separati da centinaia o migliaia di chilometri. Il fotografo Max Cavallari ne ha ricavato un originale progetto tra il reale e il virtuale, sfociato in una mostra dal titolo Di Stanze. Il progetto, diciamo, è partito per un semplice fatto che mi ritengo di essere parte di quella generazione che più di tutti hanno sentito questo fenomeno della migrazione, cioè del dover uscire dal proprio paese per andare a cercare una condizione sociale migliore. Cosa racconti? Il metodo che più mi è sembrato più efficace era quello di ritrarre, diciamo, le famiglie riunite in una certa maniera, riunite in una specie di unico ritratto di famiglia moderno, dove sono presenti fisicamente, le persone che della famiglia sono rimaste in Italia, mentre attraverso gli stessi strumenti che queste famiglie utilizzano per collegarsi, per sentirsi con il parente lontano, collegati quindi tramite Skype, tramite tutti quegli strumenti che si utilizzano per la comunicazione tramite internet, le persone ritratte invece nelle loro case, ma dall'altra parte del mondo, dove sono, a Londra, in Germania o in America, in India, dove sono capitate. Quindi in una stessa immagine, in una stessa foto, coesistono alla fine i due mondi. Esattamente, cercato di riunire, di raggruppare le famiglie ovunque esse siano. Come hanno reagito le famiglie che hai contattato per questo progetto? Nelle maniere più disparate. Ogni famiglia mi ha dato una loro impressione su cosa ne pensava alla fine di questo distacco. Quindi c'era dalla madre a cui mancavano i figli, perché uno è in Cina e l'altro in Australia, alla persona orgogliosa invece che il proprio figlio o il proprio parente sia riuscito a realizzare quello che qui in Italia non riusciva a realizzare. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.maxacavallariph.com. Un motivo per restare o tornare. Per la prima volta 4 università italiane sono tra le prime 200 al mondo secondo il QS World University Rankings. Si tratta del Politecnico di Milano, 170° posto, dell'Alma Mater di Bologna, 180°, mentre per la prima volta entrano in classifica la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Scuola Normale Superiore, entrambe al 192° posto. Per Ben Sauter, responsabile della ricerca QS, l'Italia è un paese straordinario. Spero che la classe dirigente decida di incrementare l'investimento per università e ricerca, favorire il ricambio generazionale tra i ricercatori, fermare la preoccupante migrazione di giovani menti brillanti è fondamentale per aumentare la competitività del paese. Investimenti importanti, pubblici o privati, e continuativi nella ricerca e nella formazione terziaria sono l'elemento che accomuna i paesi in crescita, dice Sauter. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni, anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, under 40 stranieri al lavoro in Italia e giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, allora Giovani Talenti è la vostra trasmissione e per questo vi invitiamo a candidarvi iscrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Con oggi si chiude anche, come vi abbiamo anticipato, la stagione di Giovani Talenti, che nelle prossime 2 settimane vi riproporrà alcune delle migliori puntate andate in onda nel corso degli ultimi mesi. Non cambiamo ovviamente né giorno né orario, sempre sabato alle 13.30 e sempre su Radio 24. Da parte mia, Sergio Nava alla conduzione e dai tecnici registi che hanno lavorato con me in questa stagione, un saluto e un augurio di buona estate!